Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Attenzione, questa novella non è di pubblico dominio negli Stati Uniti. Per tale motivo non può essere registrata da LibriVox. Tuttavia, essa è di dominio pubblico in Europa e in altre nazioni dove il diritto d'autore cessa 70 anni dopo la morte dell'autore. Se abitate in una di queste nazioni, potete scaricare questa e le altre novelle mancanti dal sito legamus.eu. Questo file può essere sovrascritto con quello presente sul sito di Legamus.